Allora, grazie della presenza, grazie a tutti per questa conferenza stampa che è un po' la conclusione del progetto d'Estimate, al quale insomma l'area marina protetta ha lavorato non poco in questi ultimi mesi e speriamo abbia un po' gli effetti sperati. E naturalmente vicino a me, per chi non lo conoscesse, c'è il presidente dell'area marina Leone Cantarini e Buongiorno. alcuni ospiti a cui adesso daremo la parola per un po' i saluti di rito. Invito subito Davide Di Giacinto della DMC Riviera dei Borghi Borghi, Acquaviva. Borghi Acquaviva. Borghi Acquaviva. Metto qua, aspetta, prendo il microfono. Metto qua. No, aspetta, se hai problemi. Metto qua così, guarda, così non sbagliamo. Sto lontano, ecco. Buongiorno a tutti. Scusate le No, spalle. vai, stai, Presidente. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Lieto di partecipare a questa mattina alla conferenza stampa che, voglio dire, è un momento anche di chiusura di un percorso di 3 giorni che ha visto il nostro territorio al centro di un importante progetto non solo turistico-culturale, ma un progetto di valorizzazione molto più ampia di un percorso che è un numero zero fondamentalmente, è un esempio di come le istituzioni, di come gli imprenditori, di come per istituzioni intendo l'area marina protetta, i comuni, gli imprenditori, le associazioni possano collaborare su un progetto che vuole porre al centro l'ambiente, la tutela del territorio e prendere questo come cappello da lanciare sui mercati nazionali e internazionali. Ripeto, un esempio che dobbiamo prendere e coltivare e replicare soprattutto con altre tante occasioni che abbiamo su questa zona che ci consentono di essere un fulcro importante non solo sul periodo prettamente estivo ma anche sul periodo autunnale, invernale, primaverile, quindi l'occasione per destagionalizzare finalmente una destinazione che merita di essere posta al centro dei mercati. Le Terre del Cerrano, perché oggi di questo comunque stiamo parlando, del territorio di Ati, Pineto, Silvi, un progetto che stiamo rilanciando come DMC insieme alle istituzioni e che vuole riprendere un vecchio discorso di qualche anno fa, scemato per diversi motivi, ma che oggi, grazie soprattutto al contributo della Regione Abruzzo, vuole tornare a essere momento aggregativo di un territorio intero. Quindi rinnovo ancora i saluti, mi scuso se dovrò andarmene, ma ho un appuntamento a breve a Teramo, quindi vi devo lasciare. Porto i saluti chiaramente del Presidente Gino Retusi, che era impegnato in un altro evento questa mattina, e di tutto il consiglio di amministrazione che ha seguito con interesse le attività della Torre di Cerrano e del progetto d'Estimate. Grazie e buona giornata. Grazie. Grazie. Grazie a Davide. Noi adesso lo dico naturalmente per i giornalisti, perché comunque gli altri ospiti un po' sono anche attori di tutto questo progetto, no? Noi adesso chiameremo qui, o comunque faremo fare un saluto anche un po' a quelli che sono stati gli attori principali del progetto, e mi riferisco in questo caso all'Associazione Albergatori, per cui invito Pio Pavone un po' a dare un saluto. Vieni Pio, vieni. Prego, prego. Vieni Vino. Fan sei di casa tu. Buongiorno. Niente, diciamo questa è la conclusione di questo progetto d'Estimed, che è una cosa per noi penso interessante che dovremmo iniziare a sposare, visto che penso che anche a livello culturale si stia spostando verso questa direzione. Quindi per noi operatori è un incentivo a, diciamo, ad abbracciare anche questo tipo di turismo ecosostenibile. Penso che il nostro territorio, anche voi che avete avuto modo di fare questo piccolo tour, vi sia piaciuto e sia adatto a quello che potrebbe essere l'offerta del pacchetto che andremo a proporre. Niente, ringrazio l'area marina protetta che ha, diciamo, sposato questo progetto, e speriamo che in futuro la collaborazione possa continuare. Mi auspico proprio che anche tutti i miei colleghi capiscono che l'importanza dell'area marina protetta è una cosa che non ci deve far paura, perché ogni tanto c'è stato anche questo input da qualcuno. Grazie a tutti e niente, buon proseguimento. Grazie. Beh, il presidente ha toccato un po', il presidente degli albergatori ha toccato un po' un punto particolare. Noi dell'area marina protetta siamo veramente orgogliosi di questo progetto. Lo siamo perché lo stiamo ripetendo un po' da tempo, da diversi anni. Spesso noi ci sentiamo, lo dico anche al presidente, una sorta di fortino. Circondato anche dagli indiani che con le frecce vogliono colpire il fortino, ma in questo caso noi con questo progetto abbiamo in qualche modo dimostrato che l'area marina è soprattutto generatrice di anche ricchezza, un volano che poi sicuramente porterà dei benefici non solo di immagine ma anche economici a un intero territorio che si è voluto candidare per tantissimi anni fa a territorio verde, a territorio accogliente, eccetera. Quindi per noi questa cosa è veramente un punto d'arrivo, nel senso che siamo orgogliosamente felici di questo avvenimento, di questo progetto. E in tal senso io volevo chiamare un altro attore, forse uno dei principali, che è il nostro direttore, il direttore Vallarola Fabio, che un po' ci racconterà quali sono stati gli step di questo progetto. Grazie Carlo, i passaggi di questo progetto sono stati tanti, sono partiti tempo fa con la candidatura del progetto da parte dell'area marina protetta a poter ospitare questo progetto qui a Torre Cerrano. Fortunatamente Federparchi ci ha preso insieme al Parco delle Colline Metallifere, di cui abbiamo qui oggi la direttrice e anche altri rappresentanti, come una delle due aree protette italiane che lavorano a questo progetto insieme alle altre 11. E l'esperienza che stiamo facendo è un'esperienza unica, perché il turismo costiero nostro non è abituato a questa tipologia di turismo e quindi stiamo crescendo tantissimo. Speriamo che oggi arriviamo alla conclusione di questo primo step, il prossimo ci sarà in primavera e speriamo che per la fine del 2018 il pacchetto sarà perfettamente messo a punto. Grazie e vi lascio di proseguire, grazie. Grazie a Fabio per il suo impegno, naturalmente, insieme a tutta la struttura dell'area marina protetta. Nostro partner, come avete potuto vedere, questo pacchetto è stato costruito un po' con un connubio natura, cultura, e naturalmente è un pacchetto che tende a valorizzare non solo l'area del costiera ma anche l'interno, perché comunque storicamente questo è un territorio legato ad Atri, legato agli Acquaviva, legato a una serie di riferimenti storici importanti. Noi tra parentesi stiamo anche studiando qualcosa che possa rimettere in gioco anche questa storia del nome del mare Adriatico, se deriva da Atria, Atria Picena, qui c'era il porto, insomma sapete tutti di che cosa stiamo parlando. E dicevo, partner fondamentale quindi in questo pacchetto ma in generale nell'attività dell'area marina protetta è anche l'oasi naturalistica del WWF. Ecco perché io volevo chiamare a dire due parole al mio amico nonché direttore del parco dell'oasi WWF Calanchi Adriano De Ascentis, che si è fatto il destino del suo nome, le vie di Adriano, quindi se l'è fatto per sé. È vero. Sì, io volevo solo ringraziare i ragazzi che hanno partecipato a questo progetto e gli organizzatori, perché in realtà siamo riusciti a mettere insieme, secondo me, una bella iniziativa di rete, e quello forse è la cosa più importante, che abbiamo iniziato a lavorare su un discorso di comunità. E spero che ai ragazzi si sia trasferito questo, non solo la bellezza del nostro territorio, del nostro cibo, dell'enogastronomia, ma anche l'umanità che ho letto nei loro occhi, perché la cosa bella di questo percorso è stata l'umanità che c'è stata durante i percorsi con loro, cioè nelle cene, nelle passeggiate. Quello che siamo riusciti, spero, a trasmettere è stata l'ospitalità, la bellezza del paesaggio e l'amicizia, che forse fa di questo una vera destinazione. Cioè il turista viene a assaporare quello che siamo, l'identità del nostro territorio. Quindi spero vivamente che si sia trasferito questo ai ragazzi. Grazie, speriamo che sia il primo di una lunga serie di destinazioni da fare tra Cerrano, Silvi ed Atri. Grazie. Le famose vie di Adriano. Esatto. E a questo punto credo che sia anche abbastanza logico arrivare un po' all'anima, a quello che ha raccolto i suggerimenti, un po' quello che ha raccolto gli input che venivano dal territorio, costruendo appunto questo pacchetto. E parlo di Luca Dalla Libera, che è un po' il progettista, diciamo quello che un po' ha tirato le fila. Io ho partecipato a brainstorm iniziale, e quindi a lui volevamo chiedere un pochettino quali erano state le su che input ha dovuto lavorare e come pensa che insomma se sta cosa sia uscita bene, se c'è ancora da lavorare. Poi faccio pure una domanda, se il territorio ha recepito. Grazie, troppo buono. Se le cose hanno funzionato non spetta a me, io tengo proprio a distinguere il ruolo tra chi pensa, progetta e tra chi poi verifica, prova e dà suggerimenti perché queste cose possano essere migliorate, e credo che questo sia il lavoro delle persone che sono venute a trovarvi in questi giorni, quindi mi rimetto al loro giudizio per capire questa cosa. No, io sono soddisfatto di come l'abbiamo progettata, perché quando si arriva a scegliere tra due idee, cioè quando attraverso il percorso partecipato si arriva a dire facciamo una cosa o ne facciamo un'altra, e quindi si sceglie di fare, e quindi il pacchetto che avete sperimentato di Adriano e quant'altro, lasciando a lato un'altra idea grandiosa che pure avevamo avuto legata alla torre, torre a difesa della natura, torre amicizia con i saraceni, cioè c'era anche un altro tema che abbiamo escluso, abbiamo centrato il pacchetto su quest'altra prima idea. Dico, quando si sceglie vuol dire che c'è fecondità, vuol dire che le persone che hanno prodotto un'idea sono state in grado di fare una riflessione bella e approfondita, quindi li ringrazio dell'esperienza professionale che ho avuto modo di fare. Ricordo due cose e chiudo. Uno, che questo progetto si pone in diretta continuità con la Carta Europea del Turismo Sostenibile, che quest'area marina protetta ha avuto da Europark Federation riconoscimento 4 anni fa, al Parlamento di Bruxelles. E primo. E secondo, una preghiera ai nostri tester, dedicate se possibile due righe per dirci se l'idea vi sembra centrata o no, e poi tutto il resto a dirci dove possiamo migliorare, perché credo che ci siano tutta una serie di cose rispetto alle quali avevamo alcuni dubbi e perplessità, e che credo il vostro lavoro sia per noi molto importante al fine di definire meglio il secondo test per primavera. Grazie. Io un tester l'ho intervistato, ha detto che naturalmente farà queste cose e che naturalmente ci darà i consigli per migliorare il pacchetto. Ma a proposito di tester, a proposito un po' di quelli che adesso ci permetteranno un po' di crescere in questo percorso, voglio invitare Paolo Pigliacelli di Federparchi, che se non sbaglio è uno di quelli che ha partecipato al percorso, e quindi adesso lo chiederemo a lui un po' quali sono i punti di forza, prego, quali sono i punti di forza e i punti di debolezza di questo territorio, o se vogliamo di questo pacchetto. No, allora, tanto grazie, scusate, stavo appunto parlando di punti di forza di questo territorio e soprattutto di questa idea che a noi ci è sembrata, adesso parlo proprio come Federparchi, ci è sembrata ambiziosa ma anche molto interessante, perché l'idea dei, diciamo, dei cammini, delle vie è molto diffusa, sta prendendo piede, è presente nei piani strategici del turismo in molte regioni, è presente nel piano strategico nazionale del turismo dove si parla molto di sostenibilità, però poi la declinazione in parliamo, ecco, anche di pacchetti, di servizi, coerenti con l'idea di legare territori con caratteristiche che a noi ci sembrano lontane, no? E trovare, come avete fatto voi qui, questo, intanto trovare l'idea legata all'imperatore Adriano e poi trovare come filo conduttore l'approccio al territorio in termini di sostenibilità, quindi come anche da Villa Adriana a qui al territorio di Atria, alle terre del Cerrano, ci avete fatto assaporare in tutti i sensi, ecco, diciamo anche con i prodotti del territorio, questi legami tra le bellezze e la natura e anche gli aspetti che abbiamo visto ieri, per esempio dei calanchi, che sono un esempio di una cosa spettacolare, però sono una testimonianza di un uso non sostenibile del territorio e quindi anche fare un messaggio educativo in questo senso. La cosa a me che personalmente mi ha colpito è anche, diciamo, la qualità del personale delle vostre strutture, che parlo soprattutto delle due aree protette e anche delle guide, perché veramente stiamo parlando di persone che abbiamo, come mi permetto di parlare anche a nome degli altri componenti del test, veramente un connubio di passione ma anche di professionalità, altissimi livelli di conoscenza, di scientificità, di conoscenze tecniche, quindi mi sembra un patrimonio veramente da non disperdere a prescindere dalla riuscita di questo specifico progetto. Chiudo dicendo una cosa: come Federparchi, ma anche come Mondo dei Parchi, siamo molto interessati a come potrà svilupparsi questa idea e come sarà messa poi in pratica, perché, ripeto, è una metodologia nuova, è una metodologia che si basa soprattutto sulla sostenibilità, che è la finalità istitutiva per cui sono state fatte le aree protette. Quindi i parchi potrebbero essere veramente l'elemento che fa da collante tra una nuova offerta di turismo intrinsecamente sostenibile. Grazie. Grazie. Grazie a voi. Bene, Presidente, siamo arrivati alla fine. Io adesso faccio anche un po' di pubblicità a noi, nel senso che tutta questa conferenza stampa poi la potete risentire sulla nostra radio, perché questa Area Marina Protetta si è dotata di una radio, di una web radio, e quindi poi c'è Radio Cerrano, appunto, e quindi potrete sicuramente, speriamo anche di farla crescere in questo senso, di utilizzarla come strumento divulgativo e non solo informativo. Quindi adesso spettano naturalmente le conclusioni al nostro presidente Lone Cantarini, che credo debba anche fare qualche ringraziamento, se non sbaglio. Sicuramente sì. Ti lascio tutta la... Non c'è bisogno, troppo gentile. Buongiorno a tutti, innanzitutto grazie per aver dedicato queste giornate al nostro territorio. Voglio ringraziare le amministrazioni comunali di Silvi, Pineto e Atri per questa disponibilità che hanno dato nell'iniziativa. Voglio ringraziare il tour operator Cerrano Service, le guide del Cerrano, mi aggiungo alle considerazioni che ha fatto Paolo Pigliacelli poco fa. Voglio ringraziare l'Oasi dei Calanghi nelle persone di Adriano De Ascendis e soprattutto di Cristina Mancinelli, che ha dedicato 3 giorni e che merita un applauso per tutto questo. E, per quanto riguarda questo progetto, voglio dire che lo abbiamo fortemente voluto e ringraziamo anche Federparchi che ci ha dato questa possibilità. Questo CDA dal primo momento, diciamo, ha focalizzato alcuni punti, cioè quello di ovviamente tutelare e rendere fruibile il nostro territorio, ovviamente cercando di andare nella direzione di uno sviluppo sostenibile. La sostenibilità è un po', ce l'abbiamo un po', come dire, in testa. All'interno del CDA abbiamo anche figure, diciamo, che hanno diverse competenze, e per quanto riguarda l'aspetto del turismo sostenibile, c'è il vicepresidente che è lui stesso un albergatore, un imprenditore, quindi per noi è anche, come dire, più facile entrare in sintonia con certe tematiche. Questo progetto è anche per il nostro territorio una sfida, perché noi dal primo momento abbiamo cercato di fare rete con le associazioni, cercando di abbandonare quella vecchia idea dell'individualismo, cioè che il comune che litiga con l'altro comune, cioè addirittura qui sono due comuni in un'area marina, quindi sarebbe assurdo che ognuno si barricasse all'interno del proprio territorio. E quest'idea di aprirci, di andare oltre i confini dell'area marina, quindi coinvolgere anche il comune di Atri, coinvolgere un'altra area protetta, sicuramente è la chiave di un'armonia sul territorio che potrebbe dare dei frutti andando avanti sempre maggiori. Questo progetto per me è molto bello, perché è chiaro che siamo in una fase, come dire, di giro di ricognizione, come ho detto il giorno che è stato presentato, però per noi rappresenta anche una sfida, un messaggio forte anche agli imprenditori turistici, perché a mio avviso è possibile cambiare atteggiamenti, è possibile cambiare modalità, è possibile fare un turismo diverso per un target di persone diverse che vogliono qualcos'altro oltre alla sdraio, l'ombrellone e la musica a tutto volume. Probabilmente c'è un target di gente che vuole qualcosa di diverso e noi dobbiamo anche andare incontro a queste persone. Certo, poi farlo con tutto quello che il territorio offre, con le nostre peculiarità, e farlo in una maniera sostenibile, per me è una cosa che mi inorgoglisce. Io spero che questo progetto vada avanti nel migliore dei modi, che ci rivedremo poi in primavera, se non sbaglio, quindi a conclusione di questa prima parte. E con questo non avrei molto altro da dire, se non che vi ringrazio veramente tutti a nome dell'area marina, dei comuni, del CDA, per quello che avete fatto in questi giorni, e spero che questo sia un primo passo verso un turismo anche diverso per quanto riguarda questo comprensorio. Grazie. Bene, io vi ringrazio. Ci sono interventi, domande? Sì, se qualcuno ha qualche intervento da fare o delucidazione, noi siamo domande a disposizione. Approfittate dei giornalisti, perché sono difficili da beccare, se volete, altrimenti passiamo poi subito a salutarci in privato. Io vi ringrazio tutti. Un apprezzamento anche per Fabiano, che è anche un po' un'anima, il nostro vicepresidente, che è un po' un'anima sotterranea di questa, così come un po' tutto il consiglio di amministrazione. Io ringrazio veramente anche Guido Capanna, ringrazio un po' tutti quelli che sinceramente stanno lavorando. Ho sentito il rappresentante che ha parlato di passione e competenza, e sono due cose che secondo me vanno di pari passo, nel senso che la competenza non si estrinseca se non si ha una forte passione dietro. Noi qui ce l'abbiamo, stiamo tentando in tutti i modi di in qualche modo anche intervenire su un certo tipo di cultura, ed è per questo che il vostro aiuto ci è molto prezioso. Grazie di nuovo. Thank you.